perché già abbiamo fatto abbastanza strada. Allora, dunque, vediamo un attimo di procedere a questa lezione, allora. Allora, l'argomento di cui ci occupiamo adesso è, cerchiamo di costruire un'altra parola, che è una parola, come dire, un po' gergale all'interno del corso, e quindi per avere una parola gergale o una parola chiave, cosiddetta, la spieghiamo una volta per tutte, dopodiché basta richiamarla, no? Questo è un po' il modo di fare. Quindi oggi spieghiamo abbastanza bene che cosa intendiamo e perché secondo noi è importante, occupandosi proprio di information technology. Allora, questa parola chiave è, ne cambiamo un po' i significati di volta in volta, nei vari contesti, nei vari momenti, però una su cui in genere definiamo questo insieme di fenomeni che andiamo a discutere è proprio la definizione di paesaggio mentale. Che è questo paesaggio mentale? Che ci facciamo? Perché ci serve? E in che maniera si inserisce questo concetto con il concetto dell'informatica? E quindi partiamo un poco da lontano per capire questo. In parte questo argomento è stato anche l'oggetto del corso monografico dell'altro anno, e poi adesso voi capirete come alcune di queste argomentazioni si possono usare anche, se volete, per elaborare questo concept che voi state già probabilmente cominciando a macinare nelle vostre teste una volta inserito questo elemento. Allora, a premessa di questa lezione, è a un certo punto, non so perché, durante la mia fase borrominiana, la mia sindrome borrominiana, fortunatamente superata, e non completamente comunque, diciamo, e mi era venuto in mente questo problema della parola volta e del legame tra questa parola e una serie di altri significati. E come dire, questo discorso apparentemente che c'entra poco, però in realtà può essere come una premessa al discorso che noi facciamo sul paesaggio mentale. Allora, la cosa che notavo è che probabilmente nell'esperienza umana una delle dei modi di una delle cose sicuramente che si sono cominciati a contare è in qualche maniera questo strano processo innanzitutto del giorno e della notte, no? C'è un ciclo che si ripete, c'è un giorno, una notte, un giorno e una notte, gira una volta il sole e crea la struttura della giornata. A poco probabilmente si è cominciato a capire, a studiare un ciclo più lungo, che è più o meno quello del mese, che è legato, come sapete, alla rotazione della Luna e alle varie fasi della Luna, che più o meno coincidono con un ciclo lunare. Dopo questo ciclo si allarga ancora di più e, come sappiamo, crea l'anno solare. Questo discorso della volta, quindi, quante volte il sole gira per creare un anno, oppure che tipo di struttura c'è al mese, che tipo di struttura c'è al giorno, c'è appunto questa parola di quante volte. Ed è molto interessante pensare che la parola volta, almeno in italiano, coincide, è sia la parola volta come volta celeste, sia volta come numero di volte che un determinato fenomeno, in questo caso stiamo parlando in ambito astronomico, viene ad avere. Durante quindi questo doppio significato di volta, in quanto volta celeste, in quanto anche diciamo, volta come ciclo, come numero di volte, in maniera abbastanza interessante coincide in italiano con un terzo significato, che è proprio la volta dal punto di vista costruttivo, no? La volta in quanto elemento di copertura, appunto voltata, che in qualche maniera evoca la volta celeste, e evoca in maniera molto forte, chiunque conosce questi problemi, delle basi come dire, scientifiche, numeriche, no? Non è probabilmente possibile costruire un tipo di volta come quella che stiamo vedendo, ma anche quelle del passato, senza una base scientifica. E come dire, in questo elemento dell'architettura, la volta, ritornano tutti e tre i significati, no? Sia il significato diciamo proprio di volta celeste, perché chiaramente le volte sono, evocano la volta celeste, sia il rapporto numerico, algebrico, scientifico alla base proprio del fatto del contare e quindi diciamo di tutta la costruzione matematica. Se noi ci addentriamo ancora di più in questo discorso, vedremo poi volte di vario tipo e di vari significati. In particolare nel caso di Borromini, come in realtà questa volta è una concretizzazione delle forze che si spingono dal basso verso l'alto, è proprio una formazione, diciamo, trasformazionale di una serie di incastri geometrici e simbolici che determinano questo elemento generato proprio, e questa è la sua forte caratteristica, dal basso verso l'alto, mentre invece la tradizione classica della volta è quella di avere un manto che, come dire, anche simbolicamente cala dall'alto verso il basso, con il processo inverso. Ma questa è una pura parentesi che a noi non interessa in questo contesto. Però ci è interessato creare, come dire, una cosa un po' nebulosa, che adesso veniamo progressivamente a chiarire, che è proprio questa idea che in qualche maniera c'è un rapporto tra la nostra maniera di interpretare il mondo, di capire il mondo, attraverso quali tipi di lenti noi guardiamo il mondo, e l'architettura. Non sono due fatti scissi. La nostra interpretazione del mondo, che è fortemente legata, come vedremo progressivamente, a un certo livello di conoscenze scientifiche accumulate in quel determinato momento, in qualche maniera si viene a rappresentare, a reificare, a diventare cosa concreta nell'architettura. Ecco, questa è il la prima maniera di parlare di paesaggio mentale. Quindi l'architettura, da questo punto di vista, non è un fatto che oggettivamente esiste in quanto tale, ma esiste in quanto reificazione, in quanto fatto diventato concreto di una certa grado di conoscenza del mondo. È il grado di conoscenza del mondo che diventa cosa concreta attraverso l'architettura, e l'architettura in qualche maniera rappresenta in una maniera molto vivida questa situazione. Tornando al Borromini, tutto parte dello sforzo di Borromini si può anche leggere all'interno di una costruzione dell'architettura fatta veramente dagli uomini, veramente dalle concezioni scientifiche degli uomini, veramente dalle costruzioni che derivano da una scienza tutta umana. Proprio questo suo fatto che nasce dal basso, dal concretizzarsi delle forze del basso, che poi ne danno forma a tutta la struttura, in qualche maniera si può anche interpretare all'interno di questo sforzo. Uno sforzo molto diverso invece dall'afflato mistico di altre epoche, o anche dalla, diciamo, dalla costruzione modulare per parti e per aggiunte che è tipica del Rinascimento. Tra l'altro, un altro aspetto che ci fa pensare sempre a questa cupola in questi termini è proprio che questo cielo che lui fa vedere è proprio un cielo in qualche maniera sondabile per la prima volta umanamente dall'uomo. Siamo negli stessi anni in cui Galileo inventa il cannocchiale, che è il primo strumento per analizzare scientificamente questa volta, no? Che diventa non soltanto elemento molto primordiale di orientamento e di conoscenza, ma diventa proprio dei fatti che possono essere analizzati scientificamente fino a suffragare la famosa tesi copernicana con tutto lo scandalo che questo ha creato. Comunque il concetto che noi ci interessa dire è che l'architettura in qualche maniera diventa reificazione di un paesaggio mentale. Questa è la tesi che vogliamo fare. E per far questo avviene attraverso la presenza dello strumento, e con strumento intendiamo un ambito abbastanza ampio di elementi. Parliamo di strumento sia dal punto di vista della presenza fisica di salti tecnologici, di innovazioni tecnologiche, sia in un'accezione diversa come cognizione scientifica, come conoscenza scientifica. Entrambi rappresentano strumenti necessari a questa opera. Facciamo adesso degli esempi concreti per capire questo concetto di paesaggio mentale. Cominciamo da una. Potete spegnere? Da qua la posso spegnere, da qua la spengo io. Allora, va benissimo così. Allora, cerchiamo di vedere adesso l'architettura come in occhi nuovi. Noi abitualmente non abbiamo questo concetto di paesaggio mentale e, come dire, vediamo l'architettura in una serie, in una specie di spazio oggettivo suo proprio, per cui, che so, noi prendiamo e fotografiamo, disegniamo, raffiguriamo, che devo dire, la piramide egizia, oppure una chiesa barocca, oppure un'architettura contemporanea, teoricamente con gli strumenti che noi abbiamo in mano oggi, strumenti di proiezione, strumenti di raffigurazione, strumenti di ripresa, eccetera. E quindi siamo abituati, come dire, a vedere queste opere fuori da sé, no? All'interno di un ipotetico spazio oggettivo. E quindi, senza la considerazione dello strumento che le ha generate e senza il concetto della storicizzazione che è legata in questo contesto al concetto di strumento. Ora, pensate invece di vedere le cose in maniera diversa, cercando di porre all'interno della cornice di strumenti che esistevano in quel determinato momento, e di nuovo come strumenti, intendo dire sia strumenti fisici sia strumenti in quanto concezioni scientifiche. Allora, guardate un attimo la piramide, e la prima cosa che voi notate vedendo una piramide è la cosa più banale da un certo punto di vista, che la piramide è un triangolo, è basato sulla figura del triangolo ed è basato su delle capacità geometriche e costruttive sicuramente legate a un determinato stato di conoscenza della geometria e anche sicuramente della trigonometria che hanno consentito di realizzare la piramide. Cioè, in qualche maniera, la piramide, oltre a moltissime altre cose di natura simbolica, costruttiva, di organizzazione del lavoro, eccetera, eccetera, è indubbiamente la raffigurazione, di un certo stadio di conoscenze dell'umanità. In qualche maniera raffigura rappresenta, reifica, diventa oggetto di alcune cognizioni, sicuramente cognizioni trigonometriche e geometriche basilari. In altre parole, poniamoci la domanda inversa: come sarebbe possibile fare una piramide se uno non ha la conoscenza del triangolo? Deve avere la conoscenza del triangolo. E capite bene che l'idea di conoscenza del triangolo non è una conoscenza che è, diciamo, connaturata a livello minimale della storia dell'umanità. A un certo punto è arrivata l'idea della geometria, del controllo della geometria e della presenza del triangolo, e dopo di questo il concetto del rapporto tra angoli, proporzioni e figure geometriche all'interno del sistema del cerchio o della volta, se vogliamo dirlo in maniera diversa, che è la sostanza della trigonometria. Allora, rifacendo la domanda di prima, possiamo dire che la piramide non è altro che la raffigurazione concreta, la rappresentazione fisica in forma architettonica di un determinato stato di conoscenze. E quindi spostiamo l'ambito, possiamo cominciare a pensare, in un certo senso, inserire questa parola che poi diventerà più forte, che in fondo il paesaggio mentale, inteso come costruzione mentale che l'umanità o l'elite di quel momento riuscivano ad avere, in qualche maniera si concretizza in delle cose come la piramide, in un oggetto come la piramide. Possiamo fare questo ragionamento andando avanti nel tempo. Per esempio, la città romana, come sapete, che è una cosa molto diversa da Roma, e questa è una cosa di cui abbiamo parlato brevemente anche nella conferenza, è difficile pensare la costruzione della città romana senza alcuni strumenti, anche reali, strumenti come, da una parte, una cosa così semplice ma così importante come il groma. Il groma non è altro che un oggetto che permette di avere allineamenti ad angoli retti e, con un sistema di puntamenti, proiettare questi sistemi di angoli retti in grandi estensioni. Un sistema, tutti sapete, si basa sui fili a piombo, organizzati ortogonalmente uno con l'altro. Ora, se voi pensate un attimo a tutta la costruzione delle città romane in quanto città artificiali, trasformatesi sulla base dell'accampamento militare, e pensate a uno strumento come il groma, da un certo punto di vista potete fare il ragionamento inverso, come dire, come pensare a la città romana anche come reificazione, come creazione concreta permessa da uno strumento del genere e da una serie di altri strumenti. Poi c'è tutto il tema molto interessante su cui in alcune occasioni abbiamo parlato molto a lungo, che è quello dei sistemi di misura e dei sistemi di controllo in base matematica. E cioè, pensate a una costruzione come il Pantheon. Una costruzione come il Pantheon, una costruzione di grandissima raffinatezza, di grande complessità. Se immaginate che la cupola è una delle più grandi mai costruite, che per millenni è stata la più grande mai costruita, e immaginate dall'altro punto di vista i numeri romani, che so quelli lì, numeri astrusi, in cui è praticamente impossibile fare delle operazioni di calcolo, giusto, come siamo abituati noi a fare. Noi possiamo fare delle operazioni di calcolo, delle operazioni con decimali, eccetera, eccetera, eccetera, perché abbiamo il sistema dei numeri romani. Con quel sistema lì, come hanno fatto, ci si domanda, a costruire opere di tale livello, sia dal punto di vista costruttivo sia dal punto di vista proporzionale? Come capita? Hanno fatto in due parole così. A quei tempi esisteva un un tipo, detta molto banalmente, di matematica, geometria operativa. Che cosa vuol dire? Che la base non è, come noi pensiamo, il sistema notazionale algebrico o numerico, ma bensì dei sistemi proporzionali che legano la geometria al calcolo. Ne è rimasta memoria di queste cose. Quando noi diciamo eleviamo una determinata potenza, entità al quadrato, cosa diciamo? Noi pensiamo 4 per 4, giusto? Noi pensiamo in termini algebrici, no? 4 al quadrato con il fatto di 4 per 4, giusto? Ma questa cosa non ha, è la stessa cosa dal punto di vista geometrico di dire che io costruisco un quadrato di base lato. Allora capite che c'è una maniera geometrica di arrivare al risultato, d'accordo? Questo tipo di impostazione, quindi attraverso la geometria, è estremamente sofisticata, e potremmo anche noi andare molto avanti. Tutte le basi, per esempio, di costruzioni di figure geometriche, l'altro anno ci siamo molto dilungati su questo, per esempio, come si fanno a costruire proprio all'interno del cerchio tutta una serie di figure regolari che sono la base per poter operare costruttivamente, erano proprio fatte attraverso dei ragionamenti di base geometrica. Qualcuno ricorderà, perché ha tantissimi ricordi, come costruire un rettangolo, un quadrato e altre figure regolari all'interno del cerchio. Questo discorso all'interno del cerchio in realtà vuol dire utilizzando delle forze, quindi movimenti reali che si fanno nel cantiere per dividere uno spazio in forza segmenti, eccetera. Quindi, che cosa vi sto dicendo? Che i sistemi erano su base geometrica e non su base algebrica. Allo stesso tempo estremamente sofisticati. L'altro anno siamo stati a lungo a riflettere su alcune figure e alcune strutture che avevano un peso enorme. La prima è la cosiddetta sezione aurea. La sezione aurea non è un sistema di posizionamento simbolico, è un sistema profondamente radicato in alcune modalità costruttive. È un sistema costruttivo che deriva dalla costruzione del pentagono. Mutazione di quelle portano a questo sistema di proporzionamento, che è un sistema di proporzionamento del tutto facilmente ricreabile su base geometrica quanto assunto su base algebrica, come chiunque sa che il numero aureo è un numero periodico che non ha senso. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che la base geometrica come sistema di costruzione e come sistema di proporzionamento e come base di calcolo era quello che era la base del sistema romano, era quello il paesaggio mentale da un certo punto che si concretizza in quel tipo di opere. Se noi invece pensiamo che fosse quello dei numeri romani, siamo fuori strada, perché con i romani non ci vogliono fare niente. Più dei sistemi ovviamente di misura diversi che loro avevano, proporzionali sempre in base a queste regole di derivazione geometrica. Quindi si tratta di una geometria operativa che loro utilizzavano in maniera estremamente sofisticata e all'interno della quale riuscivano a creare questo grandissimo momento della storia della scienza. È interessante notare come a un certo punto nella storia dell'umanità si perdano queste capacità, si perdano queste conoscenze. Tutto il momento dell'alto medioevo in particolare è un momento, come dire, di cesura, di azzeramento, per cui c'è una specie di regressione, e la regressione è anche dovuta proprio alla perdita di questa serie di strumenti. La regressione non vuol dire che esteticamente non siano anche sublimi, non è di questo che ne parliamo. Parliamo dal punto di vista dell'insieme di capacità di controllo del tipo che si erano viste precedentemente nella grande architettura romana nei momenti, diciamo, dell'alto medioevo. Adesso lì c'è un'immagine di una di un percorso scavato in una catacomba, o alcune immagini ci possono ricordare il medioevo più alto, e lì proprio si sente quasi fisicamente la perdita di quel tipo di strumentazione, no? Il fatto che non esisteva questo tipo di strumentazione. Allora, possiamo fare un passo avanti, di tipo importante per capire questo processo. Il momento importante è, ne abbiamo fatto un cenno, è quando nasce uno degli strumenti più importanti, più determinanti, possiamo dire, nella storia della visione. E parliamo di questi pochi decenni, in una città particolare, cioè Firenze, in cui si afferma l'invenzione, perché effettivamente di questo si tratta, della prospettiva. E qui succede una cosa veramente importante che ci fa, diciamo, vividamente capire quello che noi vogliamo dire con il concetto di paesaggio mentale. Che cosa succede? Succede che più o meno simultaneamente un gruppo di pittori, scultori e architetti elaborano un sistema di rappresentazione planare che ha alcune caratteristiche particolarmente significative e potenti. Il primo è che si tratta di un modello, come dire, un modello di rappresentazione che ha dei margini molto alti di, tra virgolette, scientificità. Che cosa vuol dire? Che applicando nello stesso modo alcune regole si ottiene sempre lo stesso risultato. Quindi è un modello che ha queste alcune caratteristiche fondamentali del sistema scientifico, per replicando alcune condizioni in realtà sempre lo stesso risultato, che è una delle definizioni di un approccio di tipo scientifico. Quindi io, se rifaccio un determinato coso, una determinata nella sequenza che il modello mi dice, io ottengo sempre lo stesso risultato, che è una cosa non di poco conto. Secondo, ho un sistema, questa è una cosa molto importante da presentare, voi che uscite peraltro avendo una casa, ho un sistema di andata e ritorno tra raffigurazione, diciamo, deformata prospettivamente, è misura in qualche maniera reale o progettata. Il famoso discorso dei punti di misura è una delle chiavi di volta della prospettiva. Il problema è che la prospettiva non è soltanto un sistema di raffigurazione, ma è anche, entro certi limiti, un sistema di andata e ritorno, per cui dalla misura reale posso andare alla deformazione prospettica e indietro, sempre attraverso questo discorso scientifico, quindi tra virgolette è il secondo livello. Qual è il terzo livello? Il terzo livello è che entro certi limiti appare un sistema che addirittura in un certo momento di follia posso pensare che sia vero, che sia oggettivo, cioè che io stesso veda in quella maniera. In realtà, come sappiamo, questo, insomma, però entro certi limiti abbastanza ampi, certi fenomeni molto ampi, diciamo certe maniere proiettive per cui l'immagine si stampiglia sul nostro rimanente poi cervello, assomiglia abbastanza a quella che si ha nella prospettiva. Posso fare una serie di sperimentazioni per dimostrare come la realtà proiettata su una superficie piana segua quell'insieme di regole. Come se tutto questo non bastasse e non fosse sufficiente, arriva un altro peso arriva un altro peso molto importante. Qual è l'altro peso? L'altro peso è che in qualche maniera nell'aria che si respira in questa piccola città di Firenze si respira un'aria che comincia a essere abbastanza diversa da quella tipicamente medievale. L'aria tipicamente medievale è un'aria evidentemente impregnata di misticismo, impregnata dalla centralità assoluta del momento sacro, del momento mistico, del momento, diciamo, di perdita di valore individuale per un afflato di tipo mistico, evidentemente. Invece in quegli anni si comincia a affermare, e già lo cominciano ad affermare alcuni pittori un po' particolari, come c'era pure Giotto prima, e comincia a affermare una presenza dell'umano in una maniera molto diversa da quella tipicamente medievale. E questo è evidente, basta vedere l'iconografia della pittura, quanto avviene questa trasformazione, no? Quanto i personaggi cominciano già in Giotto ad assumere una presenza fisica, corporea, reale, quanto questo sia un mondo completamente diverso, a un mondo molto più astratto, stilizzato, mistico precedente. Quindi l'altro elemento che si aggiunge a questo contesto è la presenza conscia dell'uomo in quanto oggetto anche fisico, che sta nel mondo fisicamente, che sta nel mondo all'interno di un mondo che diventa reale, e quindi è un mondo misurabile, controllabile, sondabile. A questo fatto non è un fatto trascurabile, perché dà una cornice anche di contenuto a questa rivoluzione prospettica. La rivoluzione prospettica non è soltanto tutte le cose che abbiamo detto prima, non è un gioco arbitrario, una costruzione scientifica di se stessa, eccetera, eccetera, ma diventa un'arma molto importante all'interno di questa progressiva, centralità che assume l'uomo. Allora capite che diventa una cosa, insomma, abbastanza importante, che oltretutto si crea in un cenacolo molto piccolo, in una vera corte, in cui, corte nel senso un gruppo di persone che si scambiano continuamente le informazioni, che costruiscono insieme, che creano, diciamo, questo sistema. Appunto, pittori, scultori e architetti, di cui sicuramente fondamentali sono la figura di Masaccio e la figura di Brunelleschi. E adesso vediamo che cosa succede. Nell'attimo in cui il mio paesaggio mentale, non esiste la scrittura ancora, il mio paesaggio mentale si è così fortemente deformato dalla presenza di questa nuova presenza, che è la prospettiva, di tutte le sue componenti, Il problema è che io cerco, posso usare la prospettiva, come dire, per raffigurare la mia amicizia, o posso usare la prospettiva per raffigurare tanto, ma che l'ho formato, non vuole. Ma il problema non è questo. Il problema è fare capire come fare in maniera che gli oggetti che io faccio, i paesaggi che io dipingo, le figure che io raffiguro e l'architettura che io vado a fare, non è che sia raffigurata prospetticamente, che è un fatto secondario, ma quanto un corpo di essa stessa è lasciare la prospettiva, capite che è una cosa diversa. Sì. Una cosa è raffigurare attraverso uno strumento verso un altro, d'accordo? Un'altra cosa completamente diversa è chiedermi, ma io che tipo di soggetto vado a dipingere, vado a fare, vado a creare o vado a costruire affinché la prospettiva ne venga esaltata, sia concepibile da un certo punto di vista solo attraverso la prospettiva, incameri dentro di sé la forza della prospettiva, diventi una reificazione della prospettiva stessa, non in quanto strumento di rappresentazione di qualunque cosa, ma in quanto essa stessa che si fa carne, essa stessa. E qua c'è la botta da 90, cioè a questo punto io mi devo reinventare completamente l'architettura, questo è il problema. Non posso usare, se il mio problema è come farle diventare carne la prospettiva, non posso utilizzare un'architettura fatta per un altro scopo. Se io guardo una basilica o una cattedrale gotica con attenzione, mi rendo conto che tutto il gioco è un gioco fatto in assenza di prospettiva. Il che non vuol dire che sia una cosa che non la posso vedere in prospettiva, ma la prospettiva non è carne della materia, anche della ricorda. Perché? Ma perché subito lo sappiamo? Perché il ritmo è un ritmo estremamente sincopato che tende a schiacciare le strutture. Perché il sistema decorativo è un sistema che non rafforza l'andamento spaziale ma ne è indipendente, vedi le trate, vedi i mostri, vedi i capitelli, così. Tutto il sistema è un sistema che si legge in chiave fortemente simbolica, questa idea di questa professione verso l'alto, e in chiave fortemente costruttiva, che sono le due, diciamo, elementi fondamentali. Se io devo fare un'architettura che sia prospettivizzabile, in cui la prospettiva diventa carne, devo demolire completamente il modello della cattedrale gotica. Non mi serve più, anzi, è fortemente lesivo della mia idea di prospettiva. Devo rivoluzionare l'architettura. Devo fare un'architettura diversa, e questo è il problema. E faccio un'architettura profondamente diversa perché è nato questo diverso paesaggio unitario che deve essere incorporato nella prospettiva. Allora, quando nella prima lezione vi avevo fatto vedere il San Lorenzo e ne avevamo brevemente parlato di questa cosa, qui non c'è. Ecco qua. Guardate un po' qualcosa. Qui succede esattamente questo, che l'architettura viene a essere completamente ripensata in rapporto alla presenza della prospettiva. Non è concepibile senza questo nuovo strumento. Tutto si modifica. Dal dettaglio all'organizzazione generale. Che cosa si deve fare? Innanzitutto si deve giocare con una regolarità modulare, una regolarità modulare, che è quella di in base del ciclo di base prospettica, in cui la prospettiva viene impastata, giusto? Se io faccio una serie di passi sincopati e confusi, è chiaro che non esalto la prospettiva. Se invece di fare un sistema di colonne, che so, la colonna, lombarda, lombarda, cacoto, dico, cortoso, eccetera, vicino, uno dall'altro, capite che non si prospettivizza lo spazio. Qua viene fatta esattamente la cosa in destra. Quindi vedete, per esempio, questa idea del ritmo, no? Del ritmo, l'arco a tutto sesto, nasce all'interno di questo contesto, ad esempio, ovviamente, ha bisogno di questa idea di ritmo. Dopo di che cosa ha bisogno? Ha bisogno, quindi ha bisogno di ritmo, di modularità, di facilità, di rapporto delle parti una con l'altra, tipicamente un'argomentazione di prospettica. Perché se io faccio una struttura tutta vuota, non è che prospettivista, giusto? Se io metto un pezzo, un altro pezzo, un altro pezzo, quello mi si prospettivista, giusto? È abbastanza semplice per ragionare questi termini. Quindi la maniera tipicamente rinascimentale di creare questo sistema è elemento colonna, capitello, arco, trabeazione, muro, trassettore. Ogni elemento, diciamo, si aggiunge sull'altro. E poi c'è un altro fatto fondamentale, evidentemente, è il problema del ritorno degli ordini. Perché questo famoso problema del ritorno degli ordini, quindi anche della riscoperta di alcuni, diciamo, sistemi antichi romani? Non tanto per tutta la filosofia, la letteratura che c'è dietro questo, che anche ha il suo giustificazionismo, ma perché, lo capite subito, io devo giocare con elementi modulari ripetibili e riconoscibili per poterli prospettivizzare e rendere all'interno di questa cosa. Se ognuno di questi capitelli è diverso, uno grande, uno piccolo, uno scavato, uno senza mostro, come erano quelli gotici, addio. Invece io qua devo, ho un determinato ordine, che è l'ordine, in questo caso, corinzio, che è ripetibile, modulare, è, diciamo, prospettivizzabile, e l'architettura assume forza attraverso un uso cosciente della prospettiva. Questo è il discorso. Il paesaggio mentale è esattamente questo, è la costruzione di un insieme di strumenti, vuoi tecnici, vuoi scientifici, come nel caso della prospettiva, vuoi di altra natura, che in qualche maniera devono essere verificati, io non trovo mai una parola migliore di queste, diventano cosa concreta attraverso le scelte dell'architettura congrue, anzi fatte apposta in base a quello strumento. Lo stesso ragionamento può vale in pittura, vale in scultura. Questa è, diciamo, la forza propellente, molto forte, ed ecco per questa ragione l'architettura cambia totalmente. Questo cambiamento così radicale, così repentino, e poi molto repentino, sono pochi anni, per cui arrivano queste immagini completamente diverse da quelle del passato, e proprio perché si vive in questo ambiente permeato da questa grandissima scoperta che crea un nuovo paesaggio mentale. E che quindi, diciamo, assume una rilevanza molto, molto importante per capire questo concetto. Ops. Queste sono delle raffigurazioni che voi conoscete benissimo, un dettaglio della famosa città ideale, il sistema di Durer di rapportare, come dire, tra virgolette, scientificamente attraverso questi sistemi, il sistema di proiezione della realtà in un sistema planare che viene intercettato qui alla base delle varie regole, E poi la sagrestia del San Lorenzo e altre visioni prospettiche che spiegano questi ragionamenti. Come lo vedete anche qua, no? Tipicamente questo modo così completamente diverso di pensare alle cose. Qui di nuovo il soggetto cambia ancora, cambia di nuovo radicalmente. Il mondo non è più quello, il mondo è anche un mondo indagabile dagli strumenti scientifici, la famosa lente di Galileo, eccetera, è un mondo che ridiventa, come dire, percepibile in una maniera diversa, attraverso lo strumento, attraverso dei sistemi di indagine completamente diverse, un'architettura che non si fa più per sommatoria, ma si fa, soprattutto nel caso di Borromini, per gesti plastici continui, in continua anamorfosi e trasformazione. Vedete come subito, guardate un'opera del genere, non ci andate dentro, vi rendete conto immediatamente che non è fatto, cioè la prospettiva non è l'elemento chiave di quell'opera, sono altri gli elementi in gioco, completamente altri, il mondo è proprio cambiato. E poi, senza voler affrontare tutto l'argomento in una volta, ma accennandolo appena, e poi c'è la grande cesura, la grande rivoluzione in qualche maniera, che presiede invece al momento dell'astrazione. Alla fine del Settecento, il rapporto a tutta l'organizzazione diversa, della società, del pensiero, dei progetti scientifici, eccetera, il mondo diventa, analizzabile in via analitica e non più in via sintetica, che era comunque il sistema sostanzialmente basato nel Rinascimento, via sintetica e via contestuale, no? La prospettiva è un sistema fortemente contestuale, occidentale, nel senso che tutto si determina dal punto di vista dell'osservatore, no? E un punto è diverso dall'altro in base proprio all'organizzazione dell'osservatore. Questo grande sistema, diciamo, convenzionale, contestuale, di rappresentare il mondo e quindi di conseguenza di fare l'architettura, eccetera, eccetera, eccetera, sì, a un certo punto va in frantumi, letteralmente, così come è andato in frantumi a suo tempo il rispetto mondo medievale, sostituito dal mondo prospettivo. Allora, quando nasce questo grande tema dell'astrazione, nasce un mondo completamente diverso, un modo di rappresentare, un paesaggio mentale completamente diverso, e su questo ragionamento noi dedicheremo una o due lezioni, perché dobbiamo farci abbastanza attenzione, perché alla base di questo concetto di astrazione, di analiticità, c'è tutta la costruzione del modello industriale. Siccome noi siamo in un momento ancora diverso, che è quello informatico, abbiamo bisogno di capire un po' bene come si è creato questo modello industriale basato sull'analiticità e sull'attuazione, per poter capire proprio perché noi stiamo lavorando su un'altra cosa. A questo punto il seme del ragionamento dovrebbe essere inserito. Qual è il seme del ragionamento? Il seme del ragionamento, in una parola, è che noi viviamo un paesaggio mentale nostro oggi, dell'epoca dell'informazione, completamente diverso dal modello basato sulla prospettiva, completamente diverso dal modello basato sull'astrazione, e questo stesso paesaggio mentale aspetta anche voi per essere verificato in un'architettura diversa. E questa la costruzione su cui stiamo lavorando. Noi oggi viviamo una situazione completamente diversa, abbiamo un paesaggio mentale radicalmente diverso, e proprio sono queste forze quelle che spingono a una riconsiderazione dell'architettura. Ecco perché parliamo anche da questo punto di vista di rivoluzione informatica, di motivi, eccetera, eccetera. Però su questi argomenti ovviamente ci discuteremo a fondo. Ma ecco perché la costruzione di questa idea di paesaggio mentale, cioè il rapporto tra gli artefatti, ecco, il concetto fondamentale è questo, esiste un rapporto tra l'architettura, gli artefatti generalmente detti, e il nostro stato di conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le due cose sono in rapporto, l'una è reificazione dell'altra, anche se non con un processo indolore. Non è un processo indolore, è un processo estremamente faticoso, questo bisogna dire. Perché quando Brunelleschi ha fatto Tiziano Rezzo, l'architettura gotica ha vissuto altri 400 anni, non è che veramente quello ha preso, no, in Italia ha continuato fino a tutto il Settecento a avere il modello, diciamo, gotico sostanzialmente. In Italia sono state accelerazioni molto più virtuose, molto più rapide, non è che le cose accadono di tacche andando lì. Sono dei processi molto anche lenti, faticosi e difficili di adattamento. Però quando se c'è la spinta, se c'è un sentimento di necessità, ecco, se c'è un sentimento di necessità dietro questi processi, le cose in qualche maniera si avvicinano in una certa direzione. Allora, su questo ragioneremo ancora, e se ci sono domande, volentieri. Almeno mi basta così. Va bene? Allora, ci vediamo mercoledì. Ci vediamo mercoledì, vediamo anche di fare qualche parte. Adesso vediamo di ragionare su una tenda buona. Volevo discutere con te delle scadenze. Sì.